Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Due giovani pesci nuotano insieme. Incontrano un pesce più vecchio che nuota in direzione opposta. Buongiorno ragazzi, com'è oggi l'acqua? Fa il vecchio. I due non rispondono e tirano dritto, continuando a nuotare per un po', perplessi. Poi uno dei due rompe il silenzio e dice: «E che diavolo è l'acqua?» Un piccolo aneddoto, che però racchiude in sé il nucleo del pensiero di uno dei più grandi scrittori degli ultimi 30 anni. Romanziere, filosofo, ironico, stralunato, personaggio affascinante, umorale, tormentato. Il nostro primo personaggio di oggi, David Foster Wallace. David Foster Wallace. Un curioso incrocio tra uno scrittore e una rockstar. Capello lungo, bandana in testa, al suo seguito groupie e fan come se fosse Kurt Cobain, a cui è stato spesso paragonato e con il quale nel bene e purtroppo nel male qualcosa in comune effettivamente ce l'ha. Eppure David Foster Wallace è sì uno scrittore di culto, ma tutt'altro che banale o semplice. I suoi romanzi e i suoi racconti sono complessi, densi, ricchi, in grado di scavare a fondo nell'animo dei suoi lettori. Scrivere per pubblicare è una cosa strana, perché una parte di te è un secchione che vuole sedersi in biblioteca, non vuole essere disturbata ed è molto timida. E un'altra parte di te è il più grande esibizionista di tutti i tempi. Guardatemi, guardatemi, guardatemi! E fai fantasie sullo scrivere qualcosa che faccia crollare tutti sulle ginocchia, come Al Johnson o uno del genere. Siamo all'inizio degli anni Ottanta. David Foster Wallace è uno studente universitario al corso di filosofia dell'Amherst College, dove è considerato un allievo modello. L'aspetto è un po' quello di un nerd. I suoi compagni sanno che David, classe 1962, è figlio di James D. Wallace, filosofo d'alta reputazione con cattedra alla University of Illinois, e gli girano intorno con profondo rispetto. È stato proprio il padre a guidarlo da ragazzino nella lettura del Fedone, un celebre dialogo di Platone, quando a 14 anni David gli chiede di spiegargli cosa sia la filosofia. Da quella lettura fatta insieme emerge la raffinatezza intellettuale del ragazzo e il padre lo instrada verso gli studi filosofici. All'università però David manifesta la sua predilezione per la logica matematica e la semantica. Studiavo filosofia, ma le mie aree di interesse erano la logica matematica e quella semantica e così via, cose che mio padre considerava delle stupidaggini, quindi tutto suona molto stravagante. Per certi versi stavo seguendo le orme di mio padre, ma stavo facendo anche quanto viene richiesto ad un figlio, sai, come fare la linguaccia alle sue idee. E la roba che stavo studiando era di sicuro più matematica che filosofia e non so se avrei potuto insegnare. Se sei abbastanza bravo loro ti prendono, ti mettono in un think tank e ti lasciano scrivere su dei blocchi di carta gialla. C'è un posto a Princeton dove vengono assunti e si presume siano professori. Non tengono nessun corso. Si limitano a sedersi ed ecco, elucubrano bozze. Non ero tagliato per quello. Quanto sia bravo e acuto David come filosofo lo si intuisce dalla sua tesi di laurea. Incoraggiato da uno dei suoi tutori, il giovane Wallace decide di approfondire la teoria del fatalismo e i problemi che ne scaturivano. La teoria in questione era stata espressa nel 1962 da Richard Taylor, un importante metafisico con cattedra alla Brown University. In un breve e lucido saggio dal titolo Fatalism, Taylor appoggiava la conclusione fatalistica, che cioè non si ha maggior controllo degli eventi futuri di quanto non si abbia di quelli passati. Le conclusioni di Taylor generarono una serie di critiche diverse fra loro, ma tutte concordi sul fatto che il filosofo fosse in errore. Nessuno però, nemmeno i cattedratici più blasonati, erano riusciti a dimostrarlo. Wallace vi si confronta attraverso una tesi di 76 pagine di logica, semantica e metafisica. Le parti centrali dell'argomentazione di Wallace sono di una complessità che le rende incomprensibili a chi non abbia una preparazione filosofico-accademica. Pagina in cui Wallace riesce a incrinare il fatalismo di Taylor, tracciando una distinzione tra cose fisicamente impossibili e cose logicamente impossibili. La sua conclusione è vincente e viene accettata dai filosofi contemporanei proiettandolo tra le grandi promesse del pensiero contemporaneo. In riconoscimento dei suoi studi, l'università conferisce a Wallace il prestigioso Memorial Prize in Philosophy. I'm going hungry. Insomma, tutto lascia presagire che David Foster Wallace possa intraprendere una brillante carriera accademica sulle orme paterne. Dopo la laurea, così, David entra ad Harvard per un corso post-lauream di grande prestigio. Un antico assunto afferma che le colpe dei padri ricadono immancabilmente sui figli. Ad Harvard, nel tempio accademico degli States, David Foster Wallace sente tutto il peso di una vita condizionata dall'ingombrante figura paterna che ha segnato la direzione della sua carriera. Così, improvvisamente, qualcosa dentro di lui si spezza. Accade che un giorno David, passeggiando verso casa, sfoglia un libro di racconti di un autore americano appartenente alla corrente cosiddetta postmoderna, Donald Barthelme. Questo racconto si intitola Il pallone. Così, di colpo, come un'illuminazione dirompente, come un'epifania, Wallace, che era sempre stato appassionato di narrativa, capisce cosa realmente vorrebbe fare nella vita. Scrivere. È una crisi di mezza età a nemmeno 30 anni, o almeno David la descrive così. È il momento in cui il suo universo va in pezzi, in cui improvvisamente gli appare chiara la sua vocazione fra mille tormenti. Sentivo già questo profondo disorientamento fino a quando non mi capita tra le mani quella raccolta di racconti di uno scrittore postmoderno, Donald Barthelme. Un racconto in particolare intitolato Il pallone mi colpì enormemente, smosse qualcosa dentro di me. Capì in quel momento che avrei voluto diventare uno scrittore. Nei giorni successivi a quella epifania, il progetto che David istintivamente elabora è questo: scrivere romanzi e conciliare questa attività con la sua riflessione filosofica e la sua carriera accademica. Il confronto con il genitore ingombrante, però, e un perfezionismo maniacale che lo spinge in una quasi costante condizione di paranoia, gettano David Foster Wallace in una situazione di profonda crisi. Eh sì, a metà della sua brillante carriera universitaria, il giovane David Foster Wallace, un perfetto nerd appassionato di filosofia, matematica e logica, ha la sua una crisi di mezza età a 20 anni. Buffo, no? È tutto perché il pallone di Barthelme mi ha fatto venire voglia di diventare scrittore. Due cose accadono in seguito a questa svolta nella vita di David. La riepiloga un grande amico di Wallace e il suo compagno di stanza dell'epoca, Mark Costello. La trasformazione in romanziere, con un interesse per la filosofia, fu lento e gli costò uno sforzo penoso. La prospettiva di diventare un romanziere impauriva David. Fu in quegli anni che scrisse La scopa del sistema, apparso nel 1987. Era entrato ad Harvard per un programma post-laurea, convinto di poter combinare la sua attività di filosofo con quella di romanziere, ma non fu così. L'impegno era eccessivo e David lasciò Harvard. E quella fu una decisione che ha sempre vissuta con molta umiliazione. Nel 1987, poco dopo la sua epifania letteraria, David Foster Wallace pubblica il suo primo romanzo, La scopa del sistema. Un esordio strepitoso, folgorante, un piccolo gioiello di quasi mezzo migliaio di pagine ispiratissime e bizzarre. Si tratta del racconto delle vicissitudini surreali vissute dalla 24enne germofobica Lenore, alla ricerca della bisnonna, antica studiosa di Wittgenstein, fuggita dalla sua casa di riposo insieme a 25 tra coetanei e infermieri. Lenore si troverà alle prese con personaggi stravaganti, come il fratello Lavash, piccolo genio con una passione smodata per la marijuana, come il pappagallo di famiglia, Vlad l'impalatore, che recita ossessivamente sermoni cristiani, con Norman Bombardini, re dell'ingegneria genetica che si ingozza di cibo e sogna di ingurgitare il mondo intero, e con il suo amante, Rick Vigorous. L'esordio straordinario di Wallace lo proietta subito tra gli scrittori di culto, il che per un individuo schivo e timido come lui è fonte di più di un trauma. Gli impegni si moltiplicano e per David diventa impossibile conciliare gli studi di Harvard con la sua nuova vita di scrittore. Questo ragazzo con i suoi 190 centimetri, col suo aspetto trasandato, i capelli lunghi e gli occhialini e quell'espressione da bravo ragazzo, diventa uno degli scrittori più cool del panorama mondiale. È il 1989. David entra nella clinica psichiatrica McLean's per farsi curare. Nel giro di poco tempo ha tentato il suicidio, è caduto nelle dipendenze da alcol e droghe e ha scelto di abbandonare Harvard e il peso dei confronti col padre. Non si libererà mai di questa che lui percepisce come un'umiliazione, ma ora deve fare i conti con un altro bel problema: le aspettative. Dopo La scopa del sistema, tutti attendono ciò che Wallace può scrivere con ansia spasmodica. Tra i 20 e i 30 anni, la pressione delle enormi aspettative mi aveva esasperato. Il mio primo romanzo, il successo del racconto lungo Verso Occidente. Le parti di me che pensavano fossi diverso, più intelligente o quello che era, mi hanno quasi portato alla morte. Allora, la possibilità che ogni frase uscita dalla mia penna fosse meno che fantastica mi era assolutamente intollerabile. All'inizio dell'ultimo decennio del secolo, mentre l'America vive il controverso momento dell'era post-reganiana, con la prima guerra del Golfo e l'esplosione del fenomeno grunge come risposta all'edonismo sfrenato del decennio precedente, David Foster Wallace ha soli 28 anni, è già segnato da una vita caotica. È diventato una star letteraria e ha sperimentato l'abisso della depressione. Il suo crollo gli ha insegnato che le cose che un tempo contavano per lui, intelligenza, abilità, sfoggio intellettuale, non sono più sufficienti a sostenerlo. L'unica cosa che David Foster Wallace sa di certo all'inizio degli anni 90 è che vuole ritornare ad essere un romanziere, ma una parte di lui si sente ancora troppo fragile per intraprendere questo sforzo creativo. Il problema non è mettere le parole per iscritto. Non ha certo perso la fiducia nella sua capacità di scrivere. Il problema è il bisogno di scrivere, l'urgenza, il fuoco sacro che ti disciplina e convoglia tutte le tue energie verso un obiettivo. Come trovare la forza, gli stimoli per essere regolari e disciplinati quando si deve tollerare il peso di un genio così importante e di uno stuolo di fan degno di una rockstar? Fama e insuccesso, sicurezza e insicurezza. In fondo sono le stesse cose che attanagliano ogni uomo. Paura di sbagliare, di crescere, di rischiare, di amare troppo e di non essere amati. In questo momento sono un giovane uomo patetico e confuso, uno scrittore ventottenne fallito, che è così geloso e così tanto malato di invidia verso te e verso gli altri colleghi che riescono a vivere della loro scrittura, che considero il suicidio una ragionevole soluzione, nonché un'auspicabile opzione per risolvere la questione. Certo, non è semplice comprendere il suo stato d'animo, soprattutto considerando che scrive queste parole mentre nella sua testa inizia ad apparire chiaro, limpido, il progetto narrativo di Infinite Jest. La sua crisi di mezz'età lo rende insicuro, intollerante verso il fallimento. Attanagliato da questi dubbi e queste incertezze, Wallace inizia a progettare il suo capolavoro. Sente però che con le sue sole forze difficilmente potrà portare a compimento il progetto del suo nuovo e monumentale romanzo. È qui che ha una seconda illuminazione. Cercare nell'interno del suo pantheon culturale un autore di riferimento, un totem a cui rivolgersi per avere consigli e aiuto. Wallace è stato etichettato dai critici come un autore postmoderno e così decide di rivolgersi al vero simbolo della letteratura americana postmoderna, al capostipite, l'autore che fra gli anni 80 e 90 ha influenzato tutto e tutti in ambito letterario. Il suo nome è Don DeLillo. David Foster Wallace ha 33 anni quando scrive a DeLillo e lo fa facendosi forza di alcuni commenti favorevoli che aveva letto essere stati fatti da DeLillo sui suoi primi lavori. DeLillo è un tipo schivo e vagamente scontroso. Quando gli scrive per la prima volta non sa bene come la prenderà. Tra i due nascerà uno scambio epistolare denso e fitto che si rivelerà di importanza fondamentale per Wallace e per il suo romanzo. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati parliamo di letteratura, della grande letteratura americana di fine secolo. Parliamo di David Foster Wallace, scrittore tormentato e di culto, e del grande Don DeLillo, totem della letteratura postmoderna, cui Wallace si ispira, ma soprattutto a cui si rivolge per chiedergli aiuto nel momento in cui sente di perdere il controllo della sua giovane carriera. Tra i due inizia uno scambio epistolare che sarà fondamentale per la pubblicazione del capolavoro di Wallace, Infinite Jest. Scopriamo insieme qualcosa di più su Don DeLillo. Don DeLillo è un personaggio schivo, riservato e anche un po' misterioso. Non si può definire un recluso assoluto come altri scrittori americani quali Thomas Pynchon o come Salinger, ma è comunque un personaggio nemmeno poi tanto lontano dall'esserlo. Ha scelto in un certo senso la via dell'invisibilità relativa, come Cormac McCarthy. Poca biografia, poche fotografie, ancora meno interviste. Preferisce che a parlare di lui siano i suoi libri. Si sa di Don DeLillo che è nato nel 1936 e che è di origine italiana, con padre e madre originari della provincia di Campobasso, e che è cresciuto nel Bronx, vicino ad Arthur Avenue, detestando la scuola che considerava una perdita di tempo e una gran noia, e adorando ogni forma di baseball immaginabile. Si sa anche che il territorio dei suoi giochi, come per tanti italoamericani, è stata la strada, che non si sente legato in maniera particolare alle sue origini italiane, che si è laureato in scienze della comunicazione, che per qualche tempo ha fatto un lavoro che non amava, il copywriter pubblicitario, e che, per citare una sua definizione, si è imbarcato nella vita vera, come ama dire, scrivendo il primo dei suoi 12 romanzi, Americana, a 29 anni. Allora a New York si poteva vivere con poco. Io non avevo famiglia e sono campato per 3 anni con i miei risparmi. Il primo romanzo mi ha permesso di iniziare a condurre una vita decente e autonoma e di raggiungere l'emancipazione. Di De Lillo, ora 12 romanzi dopo, fra cui capolavori come Rumore Bianco e Underworld, si sa che è sposato, senza figli, e che vive da qualche parte nel New Jersey. Che ha una faccia pallida, seria, sottile, severa, un po' spettrale. Che è sempre intenso nelle sue sporadiche dichiarazioni, come se la vita fosse troppo breve per essere sprecata a parlare con gli altri di se stessi. Un po' di questo suo poco tempo, però, Don lo dedica volentieri a David Foster Wallace e alla sua richiesta di aiuto. David si rivolge a lui perché De Lillo è universalmente considerato come uno dei più grandi scrittori contemporanei, tanto che Thomas Pynchon, il recluso, il sofisticato Pynchon, non certo un intellettuale prodigo di definizioni, lo definisce la voce più eloquente della letteratura americana. David Foster Wallace sta scrivendo Infinite Jest, che almeno nelle intenzioni e nei progetti dell'autore è un grande libro. Quelli di De Lillo sono tutti grandi libri per dimensioni, ambizioni, stile, risultati. Lontanissimo dal cosiddetto minimalismo, al contrario generoso e abbondante, Don De Lillo è uno scrittore alla ricerca costante del grande romanzo americano. Il romanzo è inseguito da tutti gli scrittori a stelle e strisce, quello che dirà tutto dell'America, la rappresenterà, parlerà con la sua voce, quello che anche David Foster Wallace sta tentando di scrivere. Tra Don De Lillo e David Foster Wallace inizia una fitta corrispondenza che verte sul romanzo capolavoro di David, Infinite Jest, appena messo in cantiere. David ha bisogno di capire come imbrigliare i suoi stimoli. È un'opera monumentale, definitiva, straordinaria, faticosissima. Per poterla scrivere sono necessarie un'abnegazione e una passione che nella personalità fragile di Wallace paiono vacillare. A questo punto, David decide di scrivere a De Lillo, che considera uno dei suoi maestri, per farsi guidare, consigliare, indirizzare e disciplinare, per riuscire a domare i suoi fantasmi. Ne nasce uno scambio epistolare intenso, in parte ancora inedito, che dimostra la sintonia tra due scrittori per certi versi lontanissimi, ma accomunati dalla grandezza interiore. Caro Don, dal momento che traspare dalle tue lettere quanto tu sia una persona gentile, e dato che hai risaputo che uno smisurato senso dell'obbligo tende ad affliggere coloro che sono gentili per natura, voglio di nuovo pregarti di non sentirti in alcun modo obbligato a leggere il manoscritto più velocemente di quanto te lo permettano i tuoi impegni e la tua sensibilità. Se Peach della Little Brown ti dovesse fare pressioni per una quarta di copertina o qualcosa del genere, ti chiedo di ignorarlo. Non ti ho mandato il libro a questo scopo. Te l'ho spedito perché le tue opere sono state importanti per me e perché ti reputo una persona intelligente e anche perché, se leggerai il libro e avrai qualcosa da dirmi a riguardo, so di avere una possibilità decente per imparare qualcosa. De Lillo risponde coniando una definizione destinata a fare storia e rivelarsi drammaticamente profetica. Attento, David, dice De Lillo, il romanzo è un killer del cazzo. Affrontalo seriamente perché se non lo addomestichi, ti distrugge. Nel rapporto sempre più intenso tra i due, di fatto, De Lillo guida a distanza Wallace sul piano del metodo, dandogli tempi e modi di lavoro. Wallace continua a mandargli le bozze del libro man mano che lo compone, per avere il parere illuminato del maestro. È così che prende forma Infinite Jest, da tutti riconosciuto oggi come uno dei più grandi romanzi dell'America contemporanea. Tempo dopo, De Lillo dirà di Wallace e delle sue opere. Tutto e di più. Potrebbe essere la descrizione del romanzo Infinite Jest, una serissima beffa sulle forme di dipendenza dell'umanità. Possiamo immaginare i testi narrativi e i saggi di David come stralci di rotoli da un lontano futuro. Infinite Jest è una riflessione profonda sul malessere della dipendenza, sulla necessità di rifugiarsi in qualcosa di umano che non basta. È uno straordinario groviglio di generi, ambientato in un futuro imprecisato, caratterizzato da una giostra di personaggi pittoreschi, bizzarri, divertenti e tragici al tempo stesso. Impossibile riassumerne la trama in poche parole. La complessità del romanzo è accresciuta anche da un metodo particolare che Wallace decide di usare per rompere la linearità della narrazione. 388 note a piè di pagina precisano, spiegano, ampliano porzioni del racconto rendendolo tortuoso e labirintico. Con Infinite Jest, Wallace diventa definitivamente un autore di culto. Siamo a una delle numerose presentazioni con letture pubbliche organizzate per promuovere il romanzo di Wallace. Lo scrittore è accolto come una rockstar. Decine di ragazzi e ragazze hanno fatto di Wallace il loro idolo e si accalcano per sentire le sue letture pubbliche come se lo scrittore fosse un guru pronto a illuminarli. Non c'è via d'uscita, per due motivi semplici ma drammaticamente profondi. Il primo è estetico. Il linguaggio dei numeri ha una poesia e una creatività superiore a quello delle parole. E quel vecchio problema dell'inesprimibile, una sorta di afasia che ti fa sentire il linguaggio vuoto, inutile o semplicemente non adeguato per raccontare la vita e il mondo. Qualcosa che ti fa sentire stupido. La matematica ha un che di sexy ed è molto triste che le persone normali non possano di solito gustare la bellezza artistica dell'astrazione. Anni dopo, in una delle rare interviste, Don DeLillo spiegherà che questa attenzione pop aveva un effetto duplice e destabilizzante sull'animo di David. David era uno scrittore complesso, difficile, ricco di sfumature e di piani di significato. Qualcosa della sua scrittura, però, ti catturava subito, a livello epidermico, ed era in qualche modo accessibile a tutti. Era indubbiamente un pregio, ma David soffriva per questa coda di fan adoranti, per i continui paragoni con Kurt Cobain. E così i fantasmi che Wallace era riuscito a domare grazie all'aiuto di DeLillo durante la composizione di Infinite Jest si riaffacciano prepotentemente subito dopo. La scrittura si farà sempre più difficile. Si riaffaccia il senso di umiliazione per quella brillante carriera accademica interrotta sul nascere. Il primo decennio del secolo sarà difficile e allucinato per David Foster Wallace. Ve lo racconteremo tra poco. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati vi stiamo raccontando la storia di David Foster Wallace, scrittore americano di culto che a soli 33 anni, nel 1996, con il romanzo Infinite Jest, si ritaglia un posto tra i più grandi scrittori americani di fine secolo. Determinante per la composizione del romanzo è la figura di Don DeLillo, il più grande autore postmoderno americano che attraverso un fitto scambio epistolare riesce a domare i fantasmi di David e ad aiutarlo nella stesura del suo capolavoro, correggendogli anche le bozze di Infinite Jest. Alla fine il risultato è così forte che i critici coniano quasi apposta la definizione di una corrente letteraria che gravita intorno al romanzo di Wallace, l'avant-pop. L'avant-pop è un movimento artistico statunitense scaturito dal post-moderno negli anni 90 del XX secolo. È caratterizzato dall'uso di materiali provenienti dai mass media come cinema, musica pop, televisione, fumetti, internet, videogiochi, montati in testi letterari nei quali si adottano tecniche narrative e testuali prese dalle avanguardie. Infinite Jest può essere considerato a tutti gli effetti un manifesto di questo movimento e Wallace un caposcuola. Per tutti gli anni del nuovo decennio, Wallace, bandana in testa, occhialini e aspetto trasandato, deve fare i conti col personaggio in cui la fama lo ha trasformato. È diventato uno degli idoli della generazione grunge e sono molti i critici che lo hanno paragonato a Kurt Cobain per la sincerità e il dolente esistenzialismo di entrambi. Beh, devo dirti che il paragone non mi ha mai entusiasmato. Trovo i Nirvana nichilisti, mentre io mi sento tutt'altro che nichilista. Del resto il mondo ti appioppa delle etichette. Qualunque cosa tu faccia, spesso sei costretto a combattere per liberarti di esse. E se perdi, beh, la cosa più pratica, anche se triste, è quella di adeguarti a ciò che quelle etichette recitano. Foster Wallace passa l'ultimo decennio della sua vita combattendo meglio che può contro il monumento vivente in cui si è trasformato. Ha provato disperatamente, per sua stessa missione, ad avere qualcosa in cui credere. Niente basta però salvarlo dall'abisso della depressione. David Foster Wallace avrebbe oggi poco più di 50 anni. Avrebbe, sì, perché è nato il 21 febbraio 1961 a Ithaca, vicino a New York, e perché il 12 settembre del 2008, nella sua casa californiana, la moglie lo trova impiccato. I suoi demoni interiori hanno avuto la meglio. Il giorno dopo la sua morte, l'amico Don DeLillo piange con un necrologio pubblico la morte del più talentuoso scrittore della sua generazione che lui aveva contribuito a consacrare. Il giornalista Dave Lipsky sintetizza così la sua intensissima esistenza. Promosso per tutte le superiori con il massimo dei voti. Ha giocato a football, tennis, ha scritto una tesi in filosofia e un romanzo ancora prima di laurearsi. Ha seguito un corso di specializzazione in scrittura creativa, ha pubblicato il romanzo. Ha fatto sì che un'intera città di editor e scrittori bercianti, sgomitanti, pronti a gambizzare chiunque, si innamorasse di lui perdutamente. Ha pubblicato un romanzo di 1000 pagine, ha ricevuto l'unico premio del paese che si assegna a chi viene riconosciuto un genio. Insomma, ha scritto articoli che restituiscono meglio di qualunque altra cosa la sensazione di ciò che significa essere vivi al giorno d'oggi. Ha accettato una cattedra speciale di scrittura creativa presso l'Università Californiana, si è sposato, ha pubblicato un altro libro e si è impiccato all'età di 46 anni. Poco prima di quel gesto definitivo, Wallace aveva pronunciato queste parole durante una sua lezione. La persona che ha una cosiddetta depressione psicotica e cerca di uccidersi non lo fa, aperte virgolette, per sfiducia o per qualche altra convinzione astratta che il dare e avere nella vita non sono impari. E sicuramente non lo fa perché improvvisamente la morte comincia a sembrare attraente. La persona in cui l'invisibile agonia della cosa raggiunge un livello insopportabile si ucciderà proprio come una persona intrappolata si butterà da un palazzo in fiamme. Il loro terrore di cadere da una grande altezza è lo stesso che proveremmo voi e io se ci trovassimo davanti alla finestra per dare un'occhiata al paesaggio. Cioè, la paura di cadere rimane una costante. Qui la variabile è l'altro terrore, le fiamme del fuoco. Quando le fiamme sono vicine, morire per una caduta diventa il meno terribile dei due terrori. Non è il desiderio di buttarsi, è il terrore delle fiamme. La pienezza che deriva dalla lettura dei suoi testi presuppone la disponibilità all'immersione. Leggere un testo di Foster Wallace è come trovarsi nell'acqua e sentire piano piano il senso che ti entra dentro. Quella stessa acqua che lui ha utilizzato per invitare dei neolaureati americani a uscire dalla facilità del sentire se stessi al centro del mondo e a rendersi conto del mondo d'intorno, che troppo spesso diamo per scontato, come i pesci, che non si rendono più conto di stare in mezzo al mare. Due giovani pesci nuotano insieme. Incontrano un pesce più vecchio che nuota in direzione opposta. Buongiorno ragazzi, com'è oggi l'acqua? Fa il vecchio. I due continuano a nuotare per un po', perplessi. Poi uno dei due dice: e che diavolo è l'acqua? Beh, cosa vuol dire questo aneddoto? Che gli uomini sono troppo presi da se stessi per rendersi conto di ciò che gli accade intorno. La verità con la V maiuscola riguarda la vita prima della morte, non ciò che c'è o non c'è dopo di essa. Riguarda la possibilità di riuscire ad arrivare ai 30 o ai 50 anni senza che vi venga voglia di spararvi un colpo alla testa. Riguarda la semplice consapevolezza di quello che è così vero ed essenziale, così nascosto in bella vista attorno a tutti noi, che dobbiamo continuare a ripeterci costantemente: questa è l'acqua, questa è l'acqua. Watching the lights go down. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.